il dibattito potrà essere fruttuoso se lo dividiamo su due fronti. Il primo riguarda il rapporto tra le scienze della religione, le varie scienze che qui sono state proposte. Abbiamo contemplato e visto un incontrarsi che apparve anche uno scontrarsi, e qualche volta dietro il problema del sapere sembra che sia emerso il problema del potere. Savoir et pouvoir. Allora il professor Bianchi ci ha proposto un criterio di comunicabilità fra le varie scienze, penso, oltre che per i vari aspetti, i criteri dell'analogia. Nonostante questo criterio dell'analogia, una tendenza sembra emergere nelle varie scienze alla globalità, cioè un certo predominio. Ecco, allora, un primo round tra i vari relatori. Come essi concepiscono questa possibilità di comunicazione tra una scienza e l'altra? Non c'è una tendenza per in ogni scienza un tantino a coprire l'area delle altre e a inglobare il terreno delle altre? Ecco una domanda che io farei ai quattro relatori, i quali a loro volta, naturalmente come ieri sera e stamattina, tra di loro si contraddiranno o discuteranno. E la seconda domanda invece che faremo in un secondo momento è questa, allora dicevo già prima, la teologia, secondo loro, ecco, inviterei loro a esprimere in che cosa può e deve essere provocata. La teologia, a loro giudizio, sembra troppo a prioristica. In che maniera la teologia potrebbe e dove dovrebbe diventare più attenta al fenomeno religioso così come viene colto dalle varie scienze? E ieri sera ricordavo un mio intervento, questa pienezza che rivendica spesso la fede cristiana e questo cristocentrismo, questa centralità dalla quale normalmente come teologi, anche perché siamo credenti cristiani, noi partiamo da giudicare le altre religioni, eccetera. Questa centralità come può essere superata? È un vizio, è un difetto? C'è in ogni scienza? O è inevitabile che qualcuno, partendo da sé, costruisca il dialogo e l'attenzione sugli altri, disegnando una specie di cerchi? Quel famoso discorso di Paolo VI, il quale ha concentrato la dinamica del concilio, del nuovo volto della Chiesa, a partire da questi quattro cerchi concentrici, la Chiesa che si ritrova girando su se stessa e mettendo in moto tutti i suoi fattori, questa sfera che muove e si muove, poi il mondo non cattolico, poi il mondo non cristiano e poi il mondo umano. Ecco, direi le due piste sulle quali penso più che altro formalmente, non prevenendo i discorsi, vorrei sentire un po' l'opinione dei nostri quattro relatori, che già in anticipo io ringrazio per quelli che forse scapperanno un po' prima. Ma dopo questo dibattito fra i quattro contendenti è possibile intervenire a giocare anche noi la nostra parte. Allora, non so, vuoi cominciare tu, Don Terry? Posso incominciare, non so, per dire qualche idea. Sì. Rispondendo direttamente soltanto alla sua domanda, oppure allora, anche allargando? Anche allargando, puoi fare domande sia a Prandi. Prima cosa, sì, allora io direi che dalla relazione che, dalla tesi che ho sostenuto ieri sera, mi pare che se il campo di ricerca è apparso così vario, eccetera, e così diversificato, mi sembra che una certa ragione implicita ce l'ho, e cioè le precomprensioni hanno giocato anche in questo caso un ruolo fondamentale. Difatti abbiamo visto come, pur studiando tutti lo stesso fenomeno, dal punto di vista storico, fenomenologico, antropologico, eccetera, ci troviamo su prospettive che diversificate e anche diversificanti, che ci distaccano più che avvicinarci. Già le obiezioni fatte al professor Bianchi sono, ritorneranno poi. Vorrei però rivolgere il discorso un po' all'antropologia. al discorso antropologico e vedrei questo, se è possibile, cioè come mai trovo interessante che il discorso fatto sulla religione dal punto di vista antropologico definisca come precomprensione, direi, la religione è un fatto culturale e va studiata come un fatto culturale. Questa è una funzione della cultura, però vorrei che nello stesso tempo l'antropologo mi dicesse se limita questo suo studio ai fenomeni religiosi in modo tale da studiarne sì i condizionamenti sociali, storici, politici, economici, non so, le varie variabili A, B, C, D, E, ma che nello stesso tempo se mi dice di lasciare impregiudicato il discorso dell'esperienza religiosa in sé per sé, perché allora a questo livello a me pare che c'è un certo margine di sicurezza e c'è anche una specie di ponte che può essere, cioè può essere un passaggio. Direi anzi che mi pare che in alcuni antropologi contemporanei ci sia proprio questo quasi ponte verso, verso la fenomenologia, verso l'esperienza religiosa più profonda. Vorrei riferirmi a Luckman, a Turner, a Geertz e anche a Freud in fondo. Cioè il problema è questo: se noi puntiamo molto sul funzionale, succede anche che possiamo puntare sul carattere funzionale della religione al suo livello più alto come un insieme simbolico. Sembra che il fattore funzionale più forte della religione sia la sua validità a livello di universo simbolico. Ora, se è vero che questo universo simbolico è strutturante dello stesso sociale, i passaggi di Durkheim, eccetera, attraverso, perché non vedere quasi un inveramento della tesi sociologica proprio nel simbolico religioso? E dunque dire che l'antropologia funzionale tende la mano al senso globale comprensivo dell'esperienza religiosa. L'esperienza religiosa come una compagine di senso di cui l'uomo ha bisogno, altrimenti anche gli smarrimenti, eccetera, il tempo di cui accennava partendo da Nietzsche, si potrebbe anche attraverso Turner ancora e tutti gli altri, vita e morte, eccetera. Riuscire a recuperare questo senso profondo in modo tale che, ripeto, il momento funzionale sia sì bene calibrato, studiato, come momenti, come condizioni A, B, C, D, eccetera, lasciando però impregiudicato quell'ultimo, che mi sembra essere il simbolico per eccellenza, in cui il funzionale sembra poter passare, e che serve proprio a coprire quella compagine di senso in cui in tutta la società si ha bisogno per ritrovare la propria identità, la propria pienezza. Questo direi un punto. Vorrei fare, posso dire ancora a livello della fenomenologia forse, o no? Io avevo fatto una domanda: concepite la possibilità di dialogo tra le scienze, la comunicabilità, o c'è ancora una pretesa di ogni scienza di quasi afferrare essa globale? E per conto mio, io già anche ieri sera dicevo che ogni scienza dal suo punto di partenza non può non pretendere di coprire tutto l'ambito della sua ricerca. Se una scienza dice io mi limito a questo e basta, io interpreto soltanto un settore, manifesta la sua lacuna e non è più scienza, non sembra non essere più in grado di proporsi come una scienza. Per questo io dubito che sia davvero possibile anche sul campo della scienza, delle religioni, riuscire a trovare una specie di convergenza univoca verso, perché sono ancora, e dico è sempre, le precomprensioni, i pregiudizi e le scelte, le opzioni che creano una prospettiva piuttosto che un'altra. E se però, ecco la mia, per conversione ci va più forte a questo livello qui, se la religione deve essere studiata, la precomprensione dovrebbe essere di carattere, diciamo, vagamente religionistico, in fondo. E cioè dovrebbe basarsi su quella possibilità, su quella condizione di possibilità per cui la religione ha ancora un senso. Altrimenti è inutile indagare sulla religione stessa. Per questo io cerco di fare lo sforzo di integrare la dimensione antropologica, come vedo molto bene invece la dimensione fenomenologica esposta, anche se mi è parsa un tantino quasi più descrittiva e storica e poco anche tesa a creare delle formazioni eidetiche su cui si possa veramente anche poi creare una filosofia della religione.